questa notte sia troppo forte, con 4 watt esce così, non lo so, non lo faccio, penso che sia buona come radio comunque, quella piccolina ci avevo in macchina, ci avevo messa in macchina. Va bene che quello lì, va bene, tutte le radio vanno bene, quando escono bene le radio, vuol dire che vanno bene. È positivo, c'è quella cosa, ma non era poco, quella è attaccata, quella ci ho attaccato quella scatoletta tua, ma non era poco. Ma quella nera o quella della ZG? Oh, della ZG, cioè, quella della ZG è questa qua, che non è accesa, però è collegata. E tu hai fatto un passaggio, cioè va bene. E quella nera era la cosa a Gianni. È positivo, quella gli ho aggiunto un trim, dove c'era quel filo che l'ha attaccato, gli ho messo un trim io a questa qua, capito? L'ho messo un trim e per cambiargli, gli cambia leggermente un po' l'ecco, gli cambia, capito? Però non era proprio quello, adesso l'ho messo, l'ho proprio attaccata, però non era detto che la faccio normale, senza, perché l'altro volevo c'era il baracchino, il 48, capito? E se voglio attaccare le qua sta accendo l'altro, questo lo lascio normale, non lo metto da parte, ho già levato un po' di cose dai mezzo piedi e sto lasciando solo la cosa più che mi può servire, dai, e gli altri sto mettendo le tue cassette, le tue mucche. E intanto quando non hai uno, poi tu che usi, te lo smetti dalla barra, no? Che problema c'hai? Non hai nessun problema, va bene. Tiri uno bene a posto e detto ci conservi tutto, andava bene, così ti ho dato la macchina, non per nessun motivo, no, Claudio, ma intanto non stavo prendendo più di tanto, dai, io sono macchina, intanto vado la mattina da qui a deposito, poi la sera da deposito torno a Ottava e cosa, a volte non accendo pure questa di questa cosa, detto, ma va a fare questa da tira a tira, ma vedi la cura, guarda, mi faccia burro, che bello, che cosa fa cavando io dentro la macchina, allora ho tolto tutto i fili, tutto quello, tutto l'impianto, l'ho tolto tutto stamattina e ho ripiantato l'antenna dello stereo che c'era sua originale al posto della capota, ho tolto tutto sulla via. La macchina non mi esibi, ce l'ho in camion, ce l'ho qui a casa, ma fa cura, la macchina l'ho tolto. Positivo. Ma quell'antenna nera piccolina, quella che c'è nella macchina, non la vale. Proviamo una base magnetica, la mettiamo su quella base, su una base magnetica, la proviamo nella smart, capito? E quella lì è piccola. Perché quella lì praticamente c'ha la farfalla, quindi si può girare. Siccome io la devo mettere sul lato la base magnetica, quindi quella si può girare e addrizzare, capito? E questa no, non è piccola, non maledizione, quella è grossa l'antenna, sarà più di un mille quell'antenna lì, è grossa, quella se la posso imprestare, capito, là, non vendere né dare, perché ho un regalo che mi ha fatto Antonello, l'aveva regalata sia la base, c'ho tutto, c'ho la basetta, tutta originale di quella, con la stessa marca di quell'antenna lì, c'ho tutto io, di quella me l'aveva data Antonello, il socio di Mauro, capito? E non mi sembra giusto farla, te la posso imprestare un mese, due mesi, non ci sono problemi, capito, però deve rientrare, non è un regalo che mi ha fatto Antonello, me l'ha regalato Antonello, capito? Ah, tu ne avevi una piccola con coso nero, col moto nero, piccolina, cosa era, sarebbe stata un metro di antenna nel manco. Ma quella, l'ho data a Massimiliano quella lì, mi pare. Aspetta un attimino. Quella l'ho data a Massimiliano, ma me l'avevi data tu quella lì, quella che mi avevi data tu stai parlando. No, non credo. Io te ne ho dato una con l'attacco a PL. Con l'attacco PL. Quella lì invece, con l'attacco a farfalla. Non è molto grande, capito? Io ce l'ho più di 100 anche. Uso quella nella smart, però non è alta, capito, un bel grande, preferisco usarne una piccola mia. Ah, ne avevo, hai ragione, una che era, non ce l'ho più, l'ho data, chi l'ho data quella lì, l'ho regalata a qualcuno, l'ho regalata quell'antenna, l'ho regalata, se non mi ricordo chi me l'ha chiesta, sto pensando chi me l'ha, l'ho regalata, Gianni Gippone, all'artista c'era quello nel coso, ma mi si è attaccato e gliel'ho regalata, e gliel'ho data. Quella era stata 80 cm lunga. L'artista che c'ha Gianni Gippone l'ho regalata, non ce l'ho più quella lì, allo secolo. Quella non ricordo che ho piccola così, mi ordino la 800 Minox, perché la PDC 800 grande è troppo, capito? È troppo, visto che nel lato sporge molto, è un po' grosso, eccetera. Invece ne metto una di quelle piccole, e quando uso un baracchino in macchina, la 48 va meglio, dai, non c'è problema, capito? Tanto ce l'ha fatta, anche adesso è una Transimiliano, quindi aspetto la fatta, la faccio l'impianto come si deve, porto la corrente, appena mi riprendo, tanto la batteria io ce l'ho sotto il sedile nella Smart, quindi capito, faccio 5 minuti, prendo due cavi, rosso e nero, grosso, e li porto direttamente all'alimentazione e c'è tutto dentro. E tu l'antenna buona ce l'avevi, bisogna trovare come quella che aveva fatto un certo il Moro, guarda, quella si chiama signora antenna. Io ho modificato quella che di Massimiliano, che era rotta, l'ho fatta praticamente come quella, io ho tolto lo stiro sopra, l'ho accorciato al tubo in rame, anche quello, l'ho accorciato di 7-8 cm. Adesso bisogna vedere dove risuona, se risuona bene nei canali bassi o nei canali alti, anche che abbia un E2, un E3 stazionari, non l'ho ancora provato, ma credo che non ne abbia stazionari comunque, perché ho eliminato l'apparatura praticamente, l'ho fatta diretta sfruttando tutta la carica che c'è, e ho messo un pattino e è diventata quella lì, capito? Adesso bisogna montarla sulla base magnetica e provarla a vedere se non ha stazionari e ce l'abbiamo uguale, però adesso non c'è tempo, poi sono anche immobilizzato, appena mi sblocco facciamo queste prove, scendo da te, smontiamo la PDC-800 con la base magnetica, montiamo quella e la proviamo, capito? È positivo. Cosa ti volevo dire? E invece quella che hai fatto, come insomma, la metto più come attacco, come è l'attacco a pelle, quella che no, quella è a farfalla, sempre a farfalla, è giusto? Ma a me va bene a farfalla così, capito? Questo mi ha dato che l'ho modificata, l'ho eliminato l'apparatura stazionaria, l'ho fatta diretta, a misura proprio come quella di Finuccio. E col gallettino a farfalla, capito? Va bene così, perché la metto sulla base magnetica e poi praticamente la giro a 45 gradi verso l'alto e rimane perfetta, anche perché è nera e va bene, capito? È positivo. Ma quella che c'avevo in macchina io era bella, cazzo, è bella quella che c'avevo in macchina, ma Antonello era micidiale col 48, fa una radio micidiale, cazzo. Bella veramente, perché io l'ho provata in macchina, l'ho provata con la base magnetica in camion, quando c'avevo l'altro camion, fa una bella radio veramente quella lì, però il minimo è 1000 ed è tutto. È tutto CTE, sia l'antenna della CTE e anche la basetta, aveva comprato tutto assieme lui, capito? Tutto abbinato assieme, cioè la basetta abbinata a quell'antenna e tutto quanto io. Normalmente funziona, no? Alla grande, stazionale non ne hai, è bella, però non fa attaccare niente con la base magnetica, invece se la metti fissa nella cappotta sì, allora puoi attaccare. No, io non posso bucare perché la cappotta di vetro, i lati sono di ferro, però sono doppi, capito? Ci sono 7-8 cm tra la mia e l'altra, sono uno scatolato e quindi non fa bucare, non se ne modo più assoluto. E allora la lascio così a base magnetica, ma intanto baracchino lo metto una volta ogni tanto, dai, non c'è problema. Va bene. Ma dai, G, mi stavo ascoltando, vado a prepararmi che anche io devo uscire. Ci sentiamo se coincide stasera. al fianco della casetta, la parte del cortile dentro, diciamo, se esci da San Franco, che è cosa alta, in mezzo a quelle mattone, è una cosa impressionante. E domani la pulisco, nella pozza, nella tolgo, la pulisco un po'. E io lo sentivo a Gigi. Dimmi Giuseppe. Guarda come stavo dicendo, questa poc'anzi, come stavo attaccando il baracchino, ho preso due fili, ho cominciato due condizionatori, due cose, due fili. Ma adesso invece in macchina? Dica. Lo stai facendo bene, non c'è problema. Ci sentiamo Giuseppe, ci vediamo domani. Cimine. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao anche a Giuseppe, dai, anche a Falchetta, anch'io respiro un po'. Ciao Gigi, ciao Gigi, guarda come mi ascolti lì, sulla tua zona, cambio. Come sta dicendo Giuseppe? Ehi, come mi ascolti Gigi? È migliorato un po', non di tanto, ma un pochettino, dai, c'è qualcosa di abbinamento in quel microfono, non lo so, però già va bene, dai, già è comprensivo.